avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Io promisi una settimana e poco più fa circa di ritornare sul caso Wikileaks, di ritornare sull'idea che potesse esistere una sorta di movimento sotterraneo che a seconda dei punti di vista è una riscossa di una nuova forma di giornalismo partecipativo e è totalmente svincolato da centri di potere, secondo altri punti di vista in realtà altro non è che un grande collettore di documenti che in realtà non dicono poi nulla di particolarmente interessante, esclusivo, nuovo o che rappresenti notizia, ma una sorta di furbissima maniera per diventare collettore di indiscrezioni, di piccoli pettegolezzi che in realtà poi strumentalmente a seconda dei paesi di riferimento, a seconda delle situazioni politiche dei paesi di riferimento diventano documenti molto importanti perché sono bellissimi per creare titoli dei giornali. L'ultima indiscrezione riferita ad esempio alle situazioni vaticane, titoli, un importante cardinale sarebbe lo yes man del Papa, tanto che questo ha dovuto rispondere dicendo beh ne sono fiero, certo, come se l'organizzazione gerarchica dello Stato del Vaticano potesse permettere che nelle gerarchie poi nei confronti di un signore che in realtà è il Papa, il sommo pontefice, possa avere un atteggiamento critico. Però nonostante questo tutti i giornali hanno detto grande indiscrezione, grande novità, il cardinale tal dei tal, mi sembra il cardinale Bertone, è lo yes man del Papa. Ecco, sai che novità che un cardinale deve rispondere in toto al Papa. Beh, questo comunque è materia interessante, importante per costruire comunque pagine di giornali tradizionali. Quindi quello che dovrebbe essere il luogo della massima espressione, della novità più assoluta nel campo dei new media, in realtà diventa materia allettante, divertente per dare ancora vitalità a quelli che sono i vecchi mezzi di comunicazione. Noi l'altra volta sostenemmo una posizione perlomeno critica nei confronti degli entusiastici, perché improvvisamente per una sorta di malcelato senso di risentimento nei confronti di comunque abbia visibilità, di chiunque abbia potere, di chiunque abbia ruolo, di chiunque abbia possibilità comunque di esprimersi attraverso un'infinità di mezzi di comunicazione, l'uomo della strada lo vede momentaneamente in mutande, quindi è tutto contento, c'è finalmente qualcuno che prende le parti di noi povera gente. Infatti molte persone hanno anche in maniera veemente protestato per quello che abbiamo detto l'altra volta. Vorrei sapere sulla base di quale cosa si definisce Assange uno che vorrebbe fare soldi sull'argomento. Il problema è abbastanza serio ed è stato affrontato nel passato sulla libertà di informazione. Gradirei sapere soprattutto, visto che ne parlate, per quale motivo Assange è un delinquente. Io credo che le poche informazioni e le troppe informazioni non siano la giusta visione del mondo che dobbiamo avere. Ciascuno di noi, per le conoscenze che ha, per l'intelligenza che possiede, dovrebbe avere il giusto quantitativo di informazioni e di nozioni per poter vivere serenamente. Volevo solo chiedere l'interpretazione del logo. A me sembra che sia l'anagramma di Kiwi e LEC, informazione, rivelare informazioni, cose del genere dall'inglese. Grazie, ciao. Come vedete i punti di vista sono tanti, il livello di informazione molte volte epidermico, sporadico, emotivamente molto pregnante, ma in realtà vediamo di capire questa mattina con le persone con cui abbiamo iniziato a parlarne a caldo la settimana passata qual è il punto della situazione. Andrea Rossetti, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a tutti. Andrea Rossetti era con noi l'altra volta, è un amico, docente di filosofia del diritto e informatica giuridica all'Università Milano Bicocca. Dico amico perché metto le mani avanti, se no uno pensa perché chiami le persone. Chiamo le persone che conosco e che stimo avere gli strumenti tecnici e di capacità e libertà, soprattutto analitica, per parlare di questa cosa. Andrea, rispetto all'altra volta ci sono dei punti di novità. Innanzitutto Assange il 7 dicembre si è presentato spontaneamente a Scotland Yard, è stato arrestato. arrestato a seguito di questo mandato di cattura internazionale, che per motivi mi sembra che travalichino di gran lunga il suo aspetto informatico, per questioni... Completamente in realtà, appunto, dalla bufera che ha scatenato. Ma infatti una delle cose secondo me interessanti, almeno dal punto di vista giuridico, sarà vedere di che cosa sarà accusato Assange, perché non si capisce bene in base ad esempio a quale legge lui possa essere accusato. Ma poi ad esempio una osservazione che è stata fatta anche da un parlamentare, da un senatore ultraconservatore americano, un repubblicano ultraconservatore, appunto, in base a quale legge noi abbiamo intenzione di giudicare Assange? Lo possiamo accusare di alto tradimento? Sicuramente no, perché Assange è un cittadino australiano, non statunitense. Quindi effettivamente imbastire anche dal punto di vista giuridico delle accuse da Assange non è affatto facile. Però gli Stati Uniti sembra che stiano chiedendo l'estradizione per spionaggio. Ma in base a che cosa, voglio dire? Cioè, non è che Assange abbia dei diritti di fedeltà nei confronti degli Stati Uniti, perché lui non è un cittadino statunitense. Come già aveva detto bene l'altra volta un altro dei tuoi ospiti, qui il problema è che non è stata fatta sicurezza all'interno dell'amministrazione. Cioè lui non ha scardinato nessun archivio, non ha fatto nessuna operazione di hackeraggio, perché questo sia chiaro, non è andato a rubare nessun tipo di segreto, scrigno dei segreti più segreti, ma delle persone che avevano dei documenti in mano gliele hanno gentilmente fatti avere. Ha ricevuto delle informazioni e le ha messe su alcuni server rendendole pubbliche a tutti. Però anche qui non si capisce bene quale sia il reato, il tipo di atto illecito che lui abbia compiuto, ad esempio appunto banalmente in base anche a quale legge, perché appunto applichiamo la legge degli Stati Uniti, ma perché la legge degli Stati Uniti e non quella italiana o non quella francese o non quella svedese? Poi applichiamo anche lo Stato del Vaticano avrebbe diritto a questo punto di chiedere a sua volta spiegazioni sulle indiscrezioni che sono uscite anche dai suoi archivi. Questo è davvero dal mio punto di vista interessante, no? Perché mostra come il diritto, così come l'abbiamo concepito fino ad oggi, non si applica a situazioni che tutto sommato potranno in futuro diventare abbastanza comuni. Sempre questo senatore americano diceva: però se noi vogliamo mettere in prigione Assange, allora dovremmo mettere in prigione anche tutti gli editori dei giornali che hanno dato eco alle informazioni che lui ha pubblicato in giro per il mondo. Però in Occidente questo non viene in mente, no? Perché in Occidente c'è la libertà di espressione molto spesso nella forma della libertà di stampa, e quindi a nessuno viene in mente di poter imprigionare qualcuno perché ha rivelato informazioni, anche informazioni segrete. Nella storia degli Stati Uniti ci sono casi in cui i giornali hanno reso pubblici atti segreti, proprio con marchiati segreti. Ma pare, scusami Andrea, ma una delle questioni più dibattute negli ultimi tempi nel nostro paese proprio la pubblicazione sui giornali di interrogatori, di documenti secretati, di atti di processi in fase istruttoria. Non vale lo stesso principio per documenti ritenuti riservati che comunque qualcuno ha messo in internet? Se è un reato metterli in rete, chi li ripubblica sui giornali non è complice dello stesso reato? Esattamente, l'idea... No, allora, io direi di no. La domanda era provocatoria, nel senso... Ovviamente sì, no, perché l'idea, allora, se io pubblico sul giornale perché dovrebbe essere reato mentre pubblicarlo in rete? No, ovviamente, almeno noi in Occidente riteniamo che in nessun caso è un reato, perché la libertà di stampa è uno dei punti fondamentali, uno dei punti forti su cui si crea la pubblica opinione, che è la base della democrazia così come ce la immaginiamo noi oggi. Quindi in nessun caso io direi è reato. La cosa ha dato molto fastidio perché, come abbiamo detto anche l'altra volta, no, sono stati svelati un po' gli altarini, tutto ciò che non veniva abitualmente detto, che tutti sapevano in qualche modo si sapesse, ma che nessuno davvero diceva. Questo ha veramente spaventato. Io ho parlato con alcune persone appunto che lavorano nella diplomazia indirettamente e direttamente, e per loro questa è davvero una rivoluzione dal punto di vista del tipo di linguaggio che loro dovranno adottare in futuro, del tipo di comunicazione che loro adotteranno in futuro, perché è davvero la novità, è completamente disintermediata la funzione dello Stato come strumento per creare accordi sovranazionali. Ecco, diciamo che l'area della diplomazia è quella veramente colpita dal fenomeno Assange, non sono gli archivi delle polizie segrete, non sono gli archivi dei servizi, non sono gli archivi riservatissimi della politica, ma mi sembra di aver capito, se non mi sbaglio, che finora le fonti di tutte le cose, di tutte le informazioni che fanno titoli e riflessioni sui nostri giornali sono dei rapporti che fanno i funzionari, i delegati, i rappresentanti diplomatici alla loro casa madre. No, allora, c'è, ovviamente c'è la facciata pubblica, insomma, quello che i diplomatici dicono e si dicono tra di loro, dicono ai politici locali, e poi c'è tutto quello che fino adesso non si sapeva, ossia a volte anche banalmente pettegolezzi, insomma, perché soprattutto insomma nel caso dell'Italia, poi tranne il caso eccezionale, insomma, erano cose che già si sapevano. Ma a me che un cardinale debba rispondere in toto al Papa non mi fa nessuna meraviglia, onestamente. No, mi meraviglierei del contrario, scusa. Il primo dovere del buon cattolico è l'obbedienza. Cioè, insomma, infatti non capisco quanto faccia notizia uno che dice quel cardinale risponde al Papa senza protestare. Cioè, ma qual è la notizia? Secondo me il punto fondamentale, no? Assange alla fine non ha creato notizie. Comunque ancora oggi nella nostra società, che si dice così disintermediata, chi crea la notizia sono i giornali e i giornalisti, che selezionano materiale, in questo caso da questo calderone in mano di documenti, selezionano dei materiali e da questi materiali creano notizie, appunto, o mettendo l'accento come in questo caso su cose, vabbè, così insomma, che denotano se non altro un po' l'ignoranza della dottrina cattolica da parte di coloro che li scrivono, oppure dando il via a una serie di più serie indagini, come sembra quelle che siano partite da su Repubblica, se non ricordo male. Ecco, 800240024. Il punto questa mattina è qual è la vostra sensazione, il livello di informazione, che parere vi siete fatti su questa bufera che sta attraversando il concetto di informazione, il concetto riservatezza, il luogo intermedio in cui va a scontrarsi il tradizionale metodo di racconto della realtà, che passa attraverso i giornali, attraverso le radio e televisioni, è qualcosa che sembra appartenere al nuovo, ma secondo me già appartiene a una realtà consolidata, che è appunto il potere della rete. 800240024. Prima la visita di un membro del consolato australiano, poi l'incontro con i suoi avvocati. A 3 giorni dall'arresto, Julian Assange si prepara a mettere a punto la strategia difensiva in vista dell'udienza per l'estradizione fissata il 14 dicembre. Credo che le accuse attuali non siano altro che un pretesto per tenerlo fermo, per tenerlo sotto custodia o qua o in Svezia, mentre gli Stati Uniti finiscono di fare un processo del Grand Jury ad Alexandria, vicino a Washington DC, con la speranza di riuscire poi ad estradarlo. Una battaglia che si preannuncia lunga e difficile. Un altro ospite che avevamo la settimana scorsa, che richiamiamo questa mattina, è Paolo Lezzi. Paolo Lezzi, buongiorno. Buongiorno. Amministratore delegato della Maglan Europa, che ricordo che è un'azienda importante del settore della difesa informatica, dell'intelligence, che è consulente di governi di tutto il mondo, alla casa madre è israeliana, e per l'Europa appunto il responsabile è Paolo Lezzi. Lezzi, riguardo invece l'operazione punitiva, l'operazione internazionale da parte di questa organizzazione a cui i giornali hanno già dato un'esistenza, Anonymous, che ha bloccato le banche, le carte di credito, sta agendo per difendere come Assange, come se fosse uno dei loro, ma mi sembra che anche in questo ci sia un'incongruenza. Assange in questo punto di vista non ha fatto un'operazione di hackeraggio, e poi esiste realmente questa realtà, questo mondo parallelo di hacker organizzati come se fossero uno Stato? Innanzitutto, come al solito, le notizie si ingrossano strada facendo e vivono poi di vita propria. Noi abbiamo monitorato pesantemente tutta questa vicenda e devo dire che il livello di attacchi che si sono scatenati è comunque non sofisticato e di basso livello. E mi preoccuperei piuttosto perché PayPal e Mastercard hanno avuto problemi. È molto preoccupante che li abbiano avuti, perché la tecnicalità che è stata messa in atto è veramente di livello basso. Cioè, questi siti sono caduti per delle ore per degli attacchi di negazione di servizio, sono attacchi distribuiti di negazione di servizio. Che cosa vuol dire sostanzialmente? Si fanno tante richieste esatto, sballate. Si fanno tante richieste, ma perché? Perché per esempio in PayPal ci sono alcuni campi da riempire, e alcuni campi non sono stati correttamente, il codice con cui è stata fatta l'applicazione non è stato correttamente rivisto, per cui è stato rifiuta il pagamento PayPal. Sì, per dire, è stato possibile fare un programmino che continuava in automatica a dirgli a rispondere a questo campo tan. E questo, diciamo che è una cosa da ragazzini, sono programmini che si trovano ovunque. Che hanno arrestato ai 16 anni in Olanda, cioè, è abbastanza vergognoso da questo punto di vista. Quindi, diciamo, poi se lo dice Paolo Lezio, dice con cognizione di causa. Adesso vorrei anche spiegare quali sono gli strumenti che avete per poter dire questa cosa, se no se possono sembrare che diamo adito a dichiarazioni, nel senso che in realtà secondo un osservatorio importante, che, la cui ragione professionale è quella di dare consulenze ai ministeri, ai governi, agli stati di tutto il mondo, quindi avrete penso modo di fare dei test approfonditi rispetto a quello che mi ha appena dichiarato, gli attacchi di cui i giornali parlano come se fosse un attacco di un esercito informatico attrezzatissimo, è un gioco da bambini che manda in tilt i server delle, delle aziende che forniscono appunto pagamento attraverso sistemi elettronici, semplicemente con dei piccolissimi software molto semplici che si scaricano ovunque in rete, che fanno delle richieste con dei campi incompleti, cioè io dico voglio pagare e comprarmi questa cosa, non metto il mio indirizzo, non metto gli estremi della mia carta di credito, naturalmente mi dicono no, non posso pagartelo, ne faccio 100.000 di queste richieste, chiaramente il server non riesce a gestire tutto questo traffico, quindi alla fine è stata ipervalutata anche questa sorta di azione bellica degli hacker organizzati, Lezzi. Sì, assolutamente, non si tratta assolutamente di una tipologia di che possa rientrare nell'information warfare, quella di cui è stato oggetto la nostra prima conferenza di ottobre a Roma. L'information warfare e cioè la guerra delle informazioni sono attacchi a infrastrutture, attacchi sistematici, attacchi agli stati, attacchi alle principali realtà economiche di un paese. Qui stiamo parlando di modalità più che note, cioè noi abbiamo diciamo monitorato anche il livello underground, anche dei fan di WikiLeaks, di Assange, come Juster, Adrian Lamo californiano e altri, non vediamo alcun tipo di cambiamento reale nel comportamento, se non una piccola recrudescenza con delle metodologie assolutamente più che risapute standard. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ancora una volta si evidenzia quello che noi cerchiamo di far capire sempre, che i livelli di difesa delle aziende, delle organizzazioni non sono ancora a livello adeguato. Cioè, quindi sono operazioni, quelle solite operazioni che si fanno per il passaparola della rete, una volta si chiamava Net Strike, si decide facciamo, imballiamo il sito a qualcuno, quindi riempiamolo di email, o riempiamolo di richieste, o riempiamolo di operazioni in modo che gli diamo dei problemi al server, ma sono piccoli giochi che si fanno semplicemente perdendo tempo in rete, facendo un passaparola. Oggi con i social network poi è molto semplice comunicare a 5.000 persone contemporaneamente lo stesso messaggio e la stessa operazione da fare. Se l'idea è forte, se il popolo è compatto nel combattimento, un piccolo fastidio si crea, ma da qui a dire che esiste un'organizzazione clandestina e parallela chiamata Anonymous in grado di bloccare i siti delle grandi banche, mi sembra ce ne passi. 800 24 00 24, a tra un istante dopo le informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. 800 24 00 24, stiamo analizzando questa mattina il fenomeno WikiLeaks, lo stiamo facendo con persone competenti, tecnicamente informate, in grado di dare delle risposte su quello che è un grande episodio emotivo di cui tutti parlano, di cui molto si parla. Da una parte non vorremmo difendere nessuna bandiera, perché oggi è molto facile essere fraintesi, e anche soltanto parlando di WikiLeaks è facile, ma lo vedo, lo intravedo dai messaggi che mi arrivano, dal senso di molti sms che arrivano, che in realtà mettere dei dubbi sulla grande operazione di disvelamento mediatico di WikiLeaks significa star dalla parte di coloro vorrebbe tenere i segreti nascosti, no, semplicemente siamo molto curiosi e molto attenti a come si va evolvendo il racconto dell'umanità e le metodologie di raccontare l'umanità, ma vogliamo farlo con un punto di vista il più possibile oggettivo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo solamente dissentire a quello che diceva prima il tecnico che stava parlando, il dottore che non mi ricordo. Paolo Lezzica, amministratore delegato della Meglan Europa. Ecco, perfetto. Sì, è vero che alcuni attacchi sicuramente sono stati fatti con piccoli programmini da ragazzini, gente che ha tempo da perdere. Ma abbiamo una situazione che è strana, perché hanno bloccato le carte di credito della Palin direttamente. Quindi, questo diciamo lei ha possibilità, non sono cose da ragazzini, perché spieghi bene, esatto, lei è un informatico, allora, praticamente hanno bloccato la carta di credito nominale della Palin e di suo marito. Questo vuol dire che cosa succede? Succede che non è una cosa così semplice da fare. Proviamo a immaginare, se fosse così semplice, io vedo, mi è antipatico Marchione, per dire, li blocco la carta. No, non è quello. Se è così, non è semplice, non è solamente semplice bloccare. Una cosa è bloccare, vabbè, blocco PayPal 2 ore, mezz'ora, 3/4 d'ora, anche eBay ogni tanto è stato bloccato. Insomma, per carità, si crea un sovraccarico ai server. A voglia di perdere del tempo, sì. E stanno lì. Ma invece andare nominalmente a bloccare una carta di credito, se è vero, almeno che non sia stato. Ecco, questo lei ne ha certezza. Io l'ho letto sui giornali, questo, dopo bisogna vedere se i giornali abbiano detto delle cose più o meno vere. Allora, fermiamoci un secondo, Marco. Lei dice, da informatico, dice, se realmente, come è stato scritto sui giornali, sono state bloccate delle carte di credito nominali e soprattutto di personaggi importanti, la politica e tutto, significa che hanno una possibilità in più rispetto a una semplice operazione di confusione. Perché allora, da ragazzini, chiunque ha smanettato sapeva benissimo che adesso forse sono cambiati anche i sistemi, non lo so. Una volta entravi dentro le carte Visa, e vedevi i conti correnti e la disponibilità che avevano le varie persone. Questa è sempre stata una cosa che non era difficile, almeno una volta. Non lo so. Che sia stato tanto facile, io avrei qualche dubbio anche. Vabbè, in passato. Ma una volta le dico che non era poi così difficile. Arrivava chi usava la carta di credito in internet, si andava e si entrava dentro e si vedeva la disponibilità, si vedeva, non si poteva mica fare niente. Beh, bisogna avere qualche dato, però. Ma sì, si entrava, diciamo. Però oltre a quello non si andava nella maniera più assoluta, cioè non c'era, sarebbe stato il sogno di tutti, vado dentro la carta di credito del signor Paperone dei Paperoni e sono a posto per la vita, ma non era possibile. Invece andare dentro nominalmente e bloccarla, se è vero, mettiamo sempre un se è vero quello che hanno scritto, però la carta la blocca diciamo non il titolare, ma la blocca l'altra, se qualcuno su quella carta fa operazioni strane. Esatto, quindi vuol dire che qualcuno è entrato dentro, ha fatto delle operazioni strane con la carta di credito della signora Palin e dopodiché è stata bloccata in automatico. Sentiamo Paolo Lezzi, se rispetto a quello che ci dice Marco c'ha qualcosa da aggiungere o ci può spiegare meglio. Paolo Lezzi. Allora, io innanzitutto ringrazio Marco per questa sottolineatura. Quello a cui mi riferivo prima erano sicuramente gli attacchi ai siti e alle infrastrutture di Mastercard e PayPal, non a questo singolo episodio, che tra l'altro è da verificare. Bisogna ricordare che la Poli e il suo marito erano già stati pesantemente attaccati con del reale hackeraggio mesi fa, quando gli avevano bloccato la casella email eccetera, e avevano avuto modo di accedere a tutta una serie di dati personali. Quindi sicuramente le informazioni sulle loro carte, non ho approfondimenti su questo, dico la mia sensazione che molte delle informazioni delle carte potrebbero essere già state raccolte in quella fase di attacco personale ai due personaggi. Comunque, ecco, non li legherei all'episodio WikiLeaks, comunque, visto che erano già stati precedentemente attaccati. Ora, che esistano hackers in grado di fare degli attacchi mirati, questo non lo esclude nemmeno lei, penso. Voglio anche sottolineare cosa intendo io per basso livello o non sofisticato. Per me un attacco sofisticato è un attacco effettuato con modalità e software, sistemi e infrastrutture non finora utilizzate. Gli attacchi come quelli che sono stati effettuati in questi giorni sono tutti fatti con modalità molto note. Il singolo episodio della Polin, sinceramente, bisogna essere sicuri che effettivamente sia avvenuto e che sia avvenuto con modalità, anche questo con modalità diciamo informatiche esterne, che anche qui non ci sia stata una qualche collaborazione. Sì, non basta assemblare comunque dei dati per dare corpo all'idea dell'esercito segreto degli hackers che sta combattendo per difendere il loro leader spirituale. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno. Telefono per porre una domanda che mi sono posto io stesso in questi giorni su WikiLeaks. Ma perché tutto a un tratto questo sito, che sì era importante, ma insomma tutto a un tratto queste rivelazioni con queste migliaia di informazioni, che ogni ambasciata ha un operatore che ha premuto il bottoncino di WikiLeaks, perché è veramente enorme. Allora voglio sapere se qualche giornalista si era domandato il perché tutto ad un tratto questo sputtanamento mondiale. Può chiedersi il perché significa entrare nelle dietrologie. Io non ho strumenti per poterlo fare. Dico che a un certo punto oggettivamente sto osservando che la notizia del giorno, per un certo periodo, in una certa circostanza e contingenza, è venuta fuori questa storia di questo signore che attraverso un sito internet avrebbe messo in ginocchio tutti gli stati del mondo. Andando poi a osservare nello specifico, anche come stiamo facendo questa mattina, analizzando il dato oggettivo, ciò che si sa, ciò che è possibile provare, ciò che è possibile certificare, si vede che in realtà c'è una percentuale molto elevata di panna montata. Andrea Rossetti, cosa ne dici? Ma sì, qui non sappiamo il perché, no? Io potrei anche pensare che alla fine sono stati i diplomatici americani che hanno voluto provocare questa fuga di notizie, però non stiamo parlando di questo livello. Quello che a noi interessa è che una cosa del genere oggi è possibile. Semplicemente fino a 10 anni fa una cosa di questo genere non sarebbe stata neanche concepibile. E il mero fatto che una cosa del genere sia possibile cambierà il tipo di relazione o le modalità delle relazioni che gli stati diplomatici avranno tra di loro. Secondo me la cosa rilevante è questa. Ripeto, poi le motivazioni di perché adesso e non 15 giorni fa o non tra 15 giorni, queste le lasciamo a chi si occupa davvero di servizi segreti, di intelligence o di diplomazia di alto livello. Io non sono in grado neanch'io di immaginarlo. Però la cosa interessante è che oggi abbiamo la rete, permette di fare questa cosa. Allora, la mera possibilità, che cosa cambierà in futuro? Come renderà diversa la nostra idea di democrazia e di libertà di espressione di stampa, perché teniamo conto che comunque negli Stati Uniti, proprio ieri peraltro alla Camera, al Senato degli Stati Uniti, è passato un documento, una prima bozza di un documento tesa a regolamentare la diffusione di informazioni riservate o segrete. Quindi in realtà quello che cambierà veramente nei prossimi anni è probabilmente l'idea che noi abbiamo di libertà di espressione, addirittura speriamo peraltro in una direzione che mantenga la tradizione che c'è qui da noi da 2 secoli a questa parte più o meno. Ecco, io voglio sentire adesso, iniziare a parlare, poi avremo in terza parte più ampiamente, con Stefano Zanero. Stefano, buongiorno. Ah, buongiorno. Che è un ricercatore esperto di ingegneria informatica al Politecnico di Milano. Mi sembra che l'informatica comunque sia la base di tutte le discussioni che stiamo facendo. Tu hai osservato che in realtà sono, per gli elementi che hai a disposizione, sono stati fatti dei passi avanti nell'ingegnerizzazione della possibilità di scardinare archivi informatici, e quello che dice Rossetti non porrà nuovi problemi riguardo al progresso e le capacità di snellire, ampliare, massificare tutti i possibili procedimenti di diffusione delle notizie. Ma allora, intanto devo dire che sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Paolo Lezzi sull'analisi degli attacchi, diciamo, che si sono stati portati avanti da questo gruppo Anonymous. Sono attacchi molto molto basilari, molto efficaci peraltro. L'unica cosa su cui anche un zampitrino sui denti è sempre efficace, però non è un'arma, sì, esatto, di rivoluzione modernissima, ecco. Assolutamente no, però c'è una cosa che mi sentirei di puntualizzare, ma credo che sarebbe d'accordo anche Lezzi con me, insomma. Il fatto che esistono in realtà delle organizzazioni di hacking ben note, ben tracciate, che hanno a disposizione degli armamentari di attacco informatico, magari non estremamente sofisticati, ma estremamente potenti. Beh, questa è la ragione per cui esiste Lezzi e la Maglan Europa, se no, la Maglan in generale. Esistono perché... Non solo lui, anche noi, anche voi. Diciamo, dipende un po' Vi danno da lavorare, diciamo, scherzando a voi questa gente, chiaro. Assolutamente. Volevo sottolineare il fatto che appunto esistono dei particolari strumenti che si chiamano malware, che sono degli oggetti che possono essere scaricati, sì, sui computer di persone che non ne sanno niente, che una volta uniti in delle strutture che noi informatici chiamiamo botnet, cioè degli insiemi collegati tra di loro di macchine che sono state infettate, possono essere utilizzati per fare degli attacchi abbastanza poderosi. Come degli zombie, dei computer zombie. Esattamente, esattamente, quelli che una volta si chiamavano computer zombie. Una volta si chiamavano computer zombie e si parlava di qualche migliaiata di macchine, adesso si parla di qualche milionata di macchine, il che vuol dire la possibilità di generare un traffico effettivamente tale per cui non c'è sito che tenga, insomma, per cui dobbiamo un pochino iniziare a vivere non è questo il caso di Wikileaks, però dobbiamo iniziare un attimino a vivere nell'ottica che probabilmente attacchi ampia portata contro anche infrastrutture ben costate sono possibili. Allora, fermiamoci soltanto un secondo, mandiamo le informazioni del traffico, poi ci sentiamo proprio fra un minuto per concludere e capire cosa c'è dal punto di vista delle garanzie e delle attenzioni da tenere ben presente osservando il fenomeno Wikileaks. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait. Mi ero interrotto io con Stefano Zanero, che è un ricercatore esperto di ingegneria informatica al Politecnico di Milano. Vorrei chiederti, Stefano, molti continuano a insistermi e a chiedermi sul fenomeno Sarah Palin e le scardinature informatiche rispetto alla sua posta elettronica, alla sua carta di credito. Ne sai qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo detto? Allora, intanto Sarah Palin diciamo che deve essere un soggetto a rischio, perché insomma tempo fa venne scardinata la sua il di Yahoo perché aveva una password troppo banale, quindi forse anche lei, diciamo, adesso lo vorrei dire, ma noi sappiamo che certe caselle free di posta elettronica sono facilmente scardinabili. Quando si fa la domanda rituale, se uno si dimentica la password e si domanda la data di nascita, basta mettere la data di nascita del soggetto e si entra. Anche un bambino, esattamente, proprio quello che è successo. e lì uno dovrebbe chiedersi perché una candidata alla presidenza della Repubblica degli Stati Uniti d'America usasse una casella Yahoo, magari questo potrebbe essere tuttora si può fare la prova, devo dire, non voglio suggerire cose, ma magari non si sarà palide, non, per... sì, però una casella YouTube provi a entrare, dice ho dimenticato la password, ti fanno alcune domande tra cui anche dimmi la tua data di nascita. Se io sono la data di nascita di una persona, e spesso nei profili Facebook e nel caso di personaggi noti basta cercare su Wikipedia, metto la data di nascita e entro dentro la casella. Questo è facilissimo. Assolutamente sì. E quello che è successo in questi giorni è che sostanzialmente lei ha mandato a giro la notizia di stampa che insomma il suo sito sarebbe stato attaccato da questi ragazzini di Anonymous. Onestamente la notizia di stampa è talmente piena di inesattezze tecniche dette da quelli che dovrebbero essere i tecnici del suo sito, che diciamo secondo me è quantomeno sospetta. Cioè, diciamo, se io entro nella tua casa, i media americani lo considerano, sì, un episodio di tentativo di ottenere visibilità. Però come vedi in Italia la cosa sembra che sia diventata la prova certa che esista il gruppo della Spectre degli informatici, almeno in questo caso non mi pare sia così. Anche se entri nella casella di posta elettronica di un soggetto, facile che tu abbia anche le password delle sue carte di credito, non dovrebbe essere così, ma molti mettono i dati riservati come promemoria nella casella di posta elettronica. Basta semplicemente tu fornisci i tuoi dati bancari a qualcuno per farti un pagamento e subito nella casella li trovi, quindi andrebbe ridimensionata. Sentiamo Alessandro. Alessandro, anche lei è un informatico professionista che vuole puntualizzare alcune nostre imprecisioni. Salve, buongiorno, grazie della possibilità di intervenire. Purtroppo mi avete ucciso l'intervento, nel senso avete appena elencato quelli che secondo me sono i principali reali problemi rispetto a oggettive problematiche informatiche. Nel senso, io personalmente, se qualcuna azienda mi occupo nello specifico della loro sicurezza, è una delle cose che, sulle quali devo arrabbiarmi di più con i vari utenti, è cercare di farli utilizzare delle password che non siano patetiche, che non siano il proprio nome di battesimo, la data di nascita, la squadra del cuore, i nomi dei figli. Esattamente, non ci vuole niente, come ha detto lei, vai su Facebook e vedi quanti figli c'ha, come si chiama la moglie, 9 su 10 entri nella casella email. Sì, infatti quasi sempre sentiamo parlare di violare la casella email, ma voglio dire, non è che sia facile violare anche una casella email di Hotmail, il più grosso provider mondiale, perché vi sono dei meccanismi di protezione. Meccanismi di protezione che invece non sono quasi mai presenti sulle email della pubblica amministrazione, io noto in Italia, o di enti parastatali o di società private, per esempio. E queste sono le reali vulnerabilità, cioè la vulnerabilità reale del sistema è determinata dall'utente, che poi spesso in gergo viene definito utonto proprio per la regione, ma non tanto dagli oggettivi dispositivi di sicurezza messi a disposizione dalla tecnologia allo stato attuale. Cioè, non è una cavolata a violare un sito, tantomeno è una cavolata a generare un attacco di DOS senza essere certo. perseguiti dalla polizia postale o da chi di dovere. Questi sono giochetti ai ragazzini, e i ragazzini si divertono soprattutto perché la gente è imbecille, in assoluta sincerità. Cioè, come chi, diciamo, non ha una serratura di sicurezza, dice, mi sono entrati i ladri in casa. Io faccio un sacco di soldi con questo tipo di problematiche, mi viene da ridere, non con problematiche reali, che devo dire, tecniche oggettive. È brutto dirlo, ma ringrazi Dio, finché ci saranno tonti, cioè, avrà da lavorare. Sono felicissimo, per carità di Dio. Però la reale problematica è l'utenza, che non si rende conto che è come se tu esci di casa e non hai la chiave della serratura, cioè la maniglietta, e ti senti tranquillo. È un po' ridicolo. Allora, Paolo Lezzi della Maglan, riportata a un livello di problematiche internazionali, quello che dice il nostro amico informatico corrisponde a realtà? Sì, assolutamente. Cioè, la cultura media non è ancora adeguata alla complessità che ha assunto la problematica della difesa delle informazioni e della sicurezza informatica, e quindi c'è ancora un uso molto banale sicuramente delle password, che comunque, al di là che uno si inventi la password più complicata del mondo, la semplice password è facilmente ricavabile di qualsiasi sistema. E quindi noi per esempio consigliamo di usare le password più qualcos'altro, che sia la chiave biometrica, la chiavetta, qualsiasi altro sistema, l'IRI, cioè tutto quello che uno si può inventare, ma di usare una combinazione di sistemi, non uno solo. L'altra cosa che secondo me va notata è il livello generale di sicurezza delle aziende e delle istituzioni non è adeguato alla realtà. Noi possiamo garantire che a livello internazionale, ma anche solo strettamente in Italia, il 90% delle grandi banche e delle grandi imprese sono possibili soggetti senza esclusione di sorta di attacchi di denial of service, cioè di quindi Lezzi, scusi, ma l'evocare poi queste presenze preoccupanti che lei ci ha confermato, ce l'ha confermato Zanetti, Rossetti, esistono comunque, di sottobosco organizzato di informatici scardinatori, non è che assolve un pochino anche le carenze di organizzazione, dare sempre la colpa a qualcosa di implacabile, indefinibile e soprattutto attivissimo che sta fuori? Sì, ma in Italia ci sono anche delle leggi, ad esempio, che danno non solo una responsabilità amministrativa, ma anche una responsabilità penale agli amministratori delle aziende che se non sono in grado di dimostrare, a fronte del fatto che la propria azienda sia stata usata come mezzo per sviluppare un'attività criminale, ne devono rispondere penalmente, se non hanno fatto tutto quello che è in loro potere per difendere l'azienda. Quindi ancora una volta ringrazio Lezzi, ringrazio Zanero, ringrazio Rossetti, ancora una volta partendo da lontano, partendo dal fenomeno Wikileaks, siamo tornati al punto di partenza. Dovremmo noi avere una maggiore cultura nei mezzi informatici che nascondono, proteggono i nostri dati personali e il frutto del nostro lavoro. A domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.